Barkovac, Balakrsa, Lajkovac, Čaje, Čurje, Paljara, hop, hop! Bentornati a Verba Volant, contenitore sonoro di controinformazione, controculture e inchieste. Ogni sabato pomeriggio in onda dalle 14 alle 15 dalle frequenze di Map Radio Organizzazione, anche quest'oggi vi terremo compagnia per questa oretta a nostra disposizione, ma iniziamo da subito con i nostri contatti importantissimi, appunto, se volete comunicare con noi. L'indirizzo email verbavolant@mapradio.it, l'indirizzo del nostro blog che da qualche tempo, come spero ormai saprete, abbiamo attivato, nel quale potete trovare diverse informazioni, notizie, argomenti che ci stanno a cuore, ma non vi dico nient'altro, vi dico soltanto l'indirizzo che spero ormai conoscerete, www.noblogs.org, ed infine l'indirizzo di posta cartacea se volete inviarci qualsiasi tipo di materiale. Verba Volant, presso Map Radio Organizzazione, via Angelo Maria Ricci 91 02100 Rieti. Ciao robobolice, ciao, sugie, paglera, oppa! E torniamo appunto in diretta con questa nuova puntata, facendo un piccolo preambolo prima di parlare di quello che sarà, diciamo, l'argomento di quest'oggi. E proprio in questi istanti, in questi minuti, sta iniziando una, diciamo così, contromanifestazione rispetto alla Fiera del Libro di Torino, inerente all'invito appunto che gli organizzatori hanno fatto allo Stato di Israele. Oggi un giorno molto particolare, infatti proprio in questi giorni cade un po', diciamo così, l'anniversario della fondazione stessa di Israele. Le critiche, le motivazioni che hanno portato a questa contromanifestazione sono state inerenti al fatto che appunto non si possa parlare di Israele, soprattutto nei termini attuali, senza in qualche modo considerare anche quella che è la questione palestinese, soprattutto visto il fatto che negli ultimi anni, ma in particolar modo negli ultimi mesi, si è inasprita molto, diciamo così, enormemente la guerra in qualche modo che contrasta queste due popolazioni proprio nel territorio medio orientale. La particolarità, diciamo così, di questa manifestazione è dovuta dal fatto che molte critiche, anche, diciamo così, da persone che in qualche modo non hanno voluto partecipare a questa contromanifestazione, basta ad esempio pensare a chi invece criticherà proprio Israele all'interno della fiera. Appunto, critiche sono state, diciamo così, invitate proprio nei confronti delle persone che sono state inviate, diciamo, degli intellettuali israeliani invitati a questa manifestazione. Effettivamente, diciamo, questi intellettuali fanno parte un po' dell'establishment inerente appunto all'attuale governo israeliano, senza considerare la numerosa, diciamo così, parte di intellettuali, forse la maggioranza, che in qualche modo si rifanno un'idea pacifista e vedono in buona parte come l'unica soluzione per la questione israelo-palestinese quella di o un unico Stato, o comunque di vedere in qualche modo riconosciuti i diritti sempre più violati del popolo palestinese. Appunto, proprio in questi minuti c'è questa contromanifestazione molto criticata, speriamo che non sfoci diciamo così in una situazione violenta, in una situazione diciamo così di scontri con le forze dell'ordine, e speriamo anche, diciamo, che effettivamente il messaggio principale non debba essere questo, o in qualche modo un'avversità nei confronti del popolo israeliano. La critica nata e forse un po' celata anche dalla stampa nei confronti della Fiera del Libro, e quindi indirettamente le motivazioni che hanno portato a questa contromanifestazione, sono un po' quelle, diciamo così, inerenti al diritto di esistenza del popolo palestinese, un diritto che sempre più spesso viene calpestato appunto in prima maniera dallo Stato di Israele. È un diritto appunto che vede nell'appoggio internazionale quella che è stata un po' la sua forza in questi lunghi decenni, che purtroppo vedono questa popolazione sempre più repressa in un territorio sempre più ristretto. E proprio a riallacciarsi, diciamo così, a quello che sarà l'argomento di questa sera, diciamo, facciamo una considerazione su una dichiarazione che è proprio scaturita da questa manifestazione e da un accadimento avvenuto alcuni giorni fa. Sicuramente avrete visto, diciamo così, un gruppo di contromanifestanti in appoggio della Palestina che hanno bruciato alcune bandiere israeliane, in particolare tre. Effettivamente, subito nello stesso periodo è successo quello che andremo in qualche modo a cercare di sviscerare quest'oggi, cioè l'assassinio di Nicola appunto a Verona. E effettivamente un neoeletto, diciamo così, nell'attuale governo, l'onorevole Fini, ha dichiarato che in qualche maniera, mettendo su una bilancia, era più grave diciamo così bruciare una bandiera di un altro stato come quella israeliana, che appunto l'assassinio, sia per un movente politico, soltanto per una bravaggine di cinque ragazzi magari un po' alticci, comunque era più diciamo così da denunciare questo fatto diciamo internazionale di bruciare una bandiera, che la vita appunto di un ragazzo distrutta, annientata dalla stupidità di persone diciamo così poco più che maggiorenni. E proprio da questo diciamo così incipit, da questa affermazione, dichiarazione che dovrebbe far riflettere sullo stato attuale non tanto della politica italiana, ma soprattutto sull'appiattimento culturale che purtroppo sempre più ogni giorno sembra crescere nel nostro paese, iniziamo appunto a parlare di quello che speriamo quest'oggi riusciremo a far comprendere ai nostri radioascoltatori. Say the soul. Nella notte appunto tra il 30 aprile e il 1 maggio a Verona, nel pieno centro della città scaligera, nel centro in qualche modo che fa attirare molti turisti, vuoi per la saga di Shakespeareana memoria, vuoi per la sua nomina come città bellissima, come effettivamente è, appunto un ragazzo di 29 anni, un ragazzo comune, un ragazzo che appunto usciva da una serata con gli amici in uno dei pochi giorni nel quale non dedicava al proprio lavoro di ingegnere informatico, viene appunto in qualche modo in combutta con cinque ragazzi più giovani di lui. Stiamo parlando di ragazzi tra i 18 e i 20 anni, con il pretesto appunto di una sigaretta negata, in qualche modo vengono picchiati sia Nicola che i suoi amici che gli facevano compagnia. Però proprio Nicola avrà la fine, diciamo così, più sfortunata e soprattutto più macabra. Cascando a terra, infatti, viene ripetutamente colpito, soprattutto diciamo così nella zona facciale, appunto dalle contusioni riportate soprattutto dai traumi cranici che con i numerosi calci riceverà nella testa. Purtroppo alcuni giorni successivi appunto perderà la vita. Ma oltre alla cronaca nera che va riportata, effettivamente vanno fatte numerose riflessioni su quello che è lo stato culturale, politico della città stessa, di Verona, ma come un po' di tutto il nord-est, ma soprattutto appunto delle dichiarazioni che sono succedute a questo accadimento e soprattutto a quelle invece che sono le notizie che proprio quest'oggi iniziano a trapelare. Caught up in the hatred and not trying to practice love. We can get away, get away, get away. We gotta build our rocket stronger, faster than the shuttle. So we can get away, get away, get away. Come on, let's fly to Paris, the city in the bubble. So we can get away, get away, get away. Effettivamente, diciamo così, le prime dichiarazioni rilasciate soprattutto dal sindaco Tosi erano quelle volte al fatto che questa, diciamo così, era in qualche modo una bravata. Ma effettivamente, diciamo, la pista neofascista molto presto è venuta alla luce e effettivamente cercheremo tra poco di fare una summa, diciamo, di tutte le notizie sparse che sono uscite ma che comunque forse sono passate un po' velate. E effettivamente c'è anche da rimarcare il fatto che purtroppo le aggressioni da parte dei movimenti di estrema destra sono sempre più numerosi e proprio nella città scaligera, proprio a Verona, sempre più spesso appunto ci sono state aggressioni nei confronti di chiunque veniva considerato diverso, sia esso un extracomunitario, sia esso un militante magari di estrema sinistra, sia esso, diciamo così, una persona indicabile come fricchettone o comunque non inerente alla cultura veronese, quindi a una cultura di ordine in qualche modo sia fisico che mentale, ma soprattutto a chiunque possa essere considerato in qualche modo diverso. Un dato, prima di passare un po' a parlare appunto di queste aggressioni, il fatto che faccia pensare come ultimamente molti ragazzi venivano in qualche modo aggrediti verbalmente o anche a volte in maniera più drastica, solo ed esclusivamente perché passeggiavano appunto per il centro mangiando un panino come il kebab, appunto direttamente inerente alla cultura medio orientale. Se si fa infatti una ricerca un po' più approfondita riguardo a dei semplici episodi di violenza, aggressioni che magari vengono descritte così sommariamente nella cronaca locale, la città di Verona infatti da qualche anno a questa parte, sto parlando principalmente dagli anni 2000, quindi dagli ultimi 8 anni a questa parte, non è nuova appunto per il verificarsi di questi fatti, di questi episodi. In realtà, appunto, si tratta di episodi, appunto, come abbiamo appena accennato, verbali, aggressioni abbastanza così lievi e leggere, che però in qualche modo mostrano una certa, così per, che se così si può definire, impronta precisa. Porto solo alla luce alcuni episodi, appunto, che si sono verificati tra l'altro nel 2004 o nel 2005, quando anche uno stesso consigliere comunale della città di Verona, appartenente alla lista dei Verdi, è stato aggredito in quanto, appunto, così accusato di portare avanti delle istanze che difendevano gli immigrati e soprattutto gli zingari, ma anche moltissimi studenti che in qualche modo, frequentando aree per così dire di collettivi studenteschi, sono stati aggrediti fisicamente e verbalmente. Quindi la città di Verona purtroppo non è nuova a questo tipo di notizie, anche se ben meno così pesanti rispetto alla notizia che ha scosso le coscienze, appunto, come quella della morte di Nicola. Tuttavia, il problema maggiore non è quello, diciamo, di selezionare e appunto numerare questi fatti, questi episodi, ma in qualche modo di catalogarli con il loro giusto nome, di mettere un'etichetta ben precisa. Ci sono pochi così media in tutto il nostro panorama nazionale dell'informazione che in qualche modo si occupano un po' di sviscerare quello che accade dietro a questi episodi di violenza che, appunto, come abbiamo cercato di dire, non sono poi così sporadici. Tra questi c'è un esperimento, se così si può dire, ma un esperimento che porta avanti delle istanze che ormai da qualche anno sono un punto di riferimento. Sto parlando di un sito, banalmente, che si chiama ecn.org, un sito che diciamo fa parte di un progetto web molto più grande di quello che, appunto, fa parte di Isole nella rete. Ebbene, se cliccate su questo sito www.ecn.org/antifa troverete tutta una serie di monitoraggi, tutta una serie di approfondimenti, articoli, informazioni legate, appunto, a episodi vandalici e aggressioni catalogate quasi giorno per giorno, che si sono verificate, diciamo così, dal 2005 fino ai giorni nostri. Ebbene, i ragazzi, perché si tratta in qualche modo di un lavoro volontario, i ragazzi di questo sito ECN hanno collezionato e monitorato ben 262 aggressioni che, appunto, secondo quanto viene sviluppato e quanto viene portato avanti, sono delle vere e delle proprie aggressioni per mano di gruppi neofascisti. Insieme a queste 262 aggressioni, 98 sono atti vandalici inneggianti propriamente al nazifascismo. Tutto, diciamo, è diviso e classificato per categorie, per far capire, appunto, quanto questo lavorio si è fatto con costanza e con un senso, appunto, per far capire quanto è importante questo lavoro. 88 attacchi sono stati fatti negli ultimi 3-4 anni a sedi di centri sociali o sedi militanti o sedi anche di partiti o di sindacati, anche contro l'AMPI. 98 aggressioni sono stati fatti a frequentatori di centri sociali o militanti. 76 altre aggressioni sono state fatte contro immigrati omosessuali, ma anche testimoni di Geova, giornalisti stessi e diciamo ragazzi comuni. 98 atti sono stati vandalici, appunto, inneggiando il nazifascismo attraverso danneggiamenti, scritte e minacce personali. E poi in questa lista incombono anche tre nomi che purtroppo fanno parte di questa lista, e sono appunto i tre morti che si sono verificati negli ultimi 5 anni. È giusto ricordare appunto nell'episodio nel 2003 verificatosi a Milano, quando Davide Cesare è stato aggredito ed ucciso da un gruppo di appunto neofascisti. Il 27 agosto invece del 2006, quando Renato Biagetti è stato accoltellato da 2 giovani simpatizzanti appunto di estrema destra sul lungomare di Focene, quindi poco lontano da Roma. E l'ultimo nome appunto è quello che è comparso, è quello di venerdì scorso, che riporta alla mente il nome di Nicola Tommasoni appunto, e i fatti che sono accaduti a Verona. Nonostante le dichiarazioni sul fatto che effettivamente questa aggressione avvenuta tra il 30 aprile e il 1 maggio non riguardava in qualche modo la politica, soprattutto alle dichiarazioni fatte dal partito in qualche modo maggiormente rientrante nella situazione, cioè Forza Nuova, le dichiarazioni appunto che avrebbero denunciato chiunque avrebbe fatto collegamenti tra questa aggressione e appunto il partito stesso, dichiarando ad esempio testuale parole che appunto se questo ragazzo, il primo appunto che si era consegnato alla polizia, frequentava quegli ambienti ultra o appunto diciamo in qualche modo i luoghi consoni ai neofascisti, non era diciamo collegabile appunto al discorso di Forza Nuova. Ma effettivamente già dal giorno successivo della consegna appunto del primo ragazzo, quello che sembrerebbe abbia sferrato i colpi che hanno portato alla morte Nicola, il ragazzo appunto che si chiama Gabriele Dalle Donne, e si iniziarono appunto a vedere forse che i collegamenti non erano così diciamo sottili, così inventati come diciamo la politica istituzionale in qualche modo voleva far credere. Effettivamente già diciamo così, alla perquisizione domiciliare del ragazzo, all'interno della sua abitazione, un po' diciamo così nascosti, sono stati trovati bandiere e soprattutto numerosi pacchi di volantini inerenti appunto sia al diciamo così al partito stesso, ma soprattutto al diciamo così alla cultura di estrema destra. Oltre a questo, diciamo dai primi controlli è uscito che lo stesso Gabriele Dalle Donne era ufficialmente indagato dalla Digos appunto di Verona da oltre un anno per altre aggressioni a migranti e diciamo così a diversi, a persone diciamo che non facevano in qualche modo parte della sua realtà, appunto avvenute a Verona stessa nell'ultimo anno, e già da questo diciamo iniziò a vedere i primi diciamo così collegamenti, ma i collegamenti non finiscono qui. Effettivamente è uscito fuori che il ragazzo faceva in qualche modo parte più o meno attivamente a una realtà come blocco studentesco, direttamente inerente ai partiti di estrema destra appunto italiani. Oltre a questo, diciamo così, nella carriera scolastica, appunto nella scuola dove diciamo lui frequentava le lezioni, sono uscite fuori diciamo casi di razzismo e xenofobia particolarmente gravi, come quando durante una gita si è rifiutato di entrare in una sinagoga rivendicando appunto il fatto che l'antisemitismo dovesse essere ancora una pratica da in qualche modo rivalutare. E oltre a questo appunto durante un'assemblea con i familiari della strage di Bologna il ragazzo stesso in qualche modo ha denunciato il fatto che Luigi Ciavardini, attualmente diciamo così condannato dalla magistratura italiana per la strage appunto della stazione di Bologna, appunto dichiarò la sua innocenza partecipando poi ad una manifestazione all'esterno della scuola proprio contro appunto questa condanna. Ma appunto le diciamo così le congiunzioni continuano. Al momento in cui stiamo parlando del 7 maggio, appunto venne in qualche modo resi pubblici i legali appunto dei cinque aggressori, esce fuori il nome appunto di Roberto Businello. La persona in questione, diciamo così, è una persona direttamente partecipante alla politica di Forza Nuova. Effettivamente è un ex consigliere comunale della città di Verona del Movimento Sociale Italiano e appunto fino proprio agli ultimi mesi è stato un leader veronese dello stesso del partito di Forza Nuova, fino al momento in cui appunto che con la costituzione del neopartito La Destra di Storace ha in qualche modo appunto legato con questo nuovo partito. Appunto Businello, avvocato direttamente inerente a Forza Nuova, nella sua carriera politica in qualche modo, oltre al diciamo così a essere il leader in qualche modo provinciale del partito stesso, è stato appunto candidato come capolista per il Senato proprio dal partito stesso, e appunto precedentemente era stato in qualche modo candidato appunto al comune stesso. Tutto questo fa in qualche modo vedere le congiunzioni che ci sono tra i partiti di estrema destra e in qualche modo questa aggressione, ma soprattutto diciamo così tutti i nodi sono in qualche modo caduti proprio in questi giorni. Effettivamente l'8 maggio è uscito un po' diciamo alla luce, uscito su numerosi giornali anche se non messo particolarmente in luce, il fatto che un altro dei cinque arrestati, Federico Perini, è stato proprio nelle ultime elezioni del 2007 candidato nelle liste proprio di Forza Nuova alle amministrative di Verona, e effettivamente questo in qualche modo ha fatto cadere ogni possibilità da parte diciamo della politica istituzionale, soprattutto del sindaco Tosi, di voler completamente scollegare dalla politica questo fatto e in qualche modo definire come una bravata, come una cosa tra ragazzi, magari con qualche diciamo così birra di troppo addosso, questa vera e propria aggressione che c'è stata appunto tra il 30 aprile e il 1 maggio. Ma un'altra interessante diciamo così visione di questa aggressione c'è stata proprio uscita in questi giorni da parte di Claudio Lazzaro, che sicuramente molti di voi si ricorderanno come il regista del film Nazi Rock, che ha destato proprio nei giorni immediatamente precedenti alle le ultime elezioni politiche molto scalpore appunto sia per diciamo così in qualche modo il vedo di proiettarlo da parte appunto del partito stesso di Forza Nuova, sia soprattutto per le aggressioni seguite a quei spazi, a quelle realtà cittadine che hanno deciso ovviamente di proiettarlo comunque. E appunto proprio l'autore, il regista Claudio Lazzaro, in un articolo uscito su Liberazione il 6 maggio, quindi proprio alcuni giorni fa, diciamo così, riallaccia il discorso proprio sull'aspetto politico tra i partiti e questa aggressione inerente appunto a quella che è accaduto quella sera, ma soprattutto cerca di in qualche modo riflettere sul fatto che questi personaggi, come ad esempio il Veneto Fronte Skinhead, come gli Hellas appunto la curva del Verona, o come appunto i partiti di estrema destra italiani, abbiano un collegamento diciamo così molto forte con la politica istituzionale, con i partiti che in qualche modo attualmente siedono al Parlamento, un collegamento che lui definisce diciamo così molto allarmante. Appunto il suo ragionamento, diciamo, lega anche la Lega a queste realtà di estrema destra, indicando ad esempio quello che è accaduto a Borghezio quando picchiato appunto da diciamo delle persone definite autonomi per diciamo così la questione della TAV proprio in Piemonte, appunto Borghezio stesso dichiarò che le uniche persone che in qualche modo fecero una telefonata mentre era ricoverato in ospedale furono appunto proprio ad esempio Romagnoli e la signora Mussolini, che in qualche modo portarono appunto la loro solidarietà nei confronti dell'onorevole europeo. E appunto proprio Lazzaro fa in qualche modo quadrato, dicendo che proprio nel nord-est, in particolare appunto in Veneto, c'è un vero e proprio terreno comune, una sorta di commissione tra appunto la politica istituzionale, quella diciamo con la A maiuscola, ma d'altra parte appunto con la Lega e soprattutto con questi partiti, con queste realtà di destra radicale, una in qualche modo diciamo unione che porta a voler modificare sempre più spesso la cultura e soprattutto a in qualche modo diciamo indirizzare i ragazzi verso una diciamo cultura appunto aggressiva, una cultura di violenza che purtroppo è sfociata ovviamente in quello che è accaduto quella fatidica notte. E oltre ad esso, diciamo così, lo stesso Lazzaro fa una riflessione indicando appunto che nei giorni diciamo subito successivi alle elezioni, quando ha girato un po' l'Italia per presentare il suo documentario, porta appunto l'esempio di Perugia, dove diciamo si era indicato nel centro sociale della città a in qualche modo presentare il suo lavoro. E appunto qui diciamo il giornalista, voltosi a diciamo appunto alla regia, in qualche modo fa una riflessione inerente appunto ai ragazzi molto simili a quelli d'estrema destra, i skin che lui appunto definisce diciamo non fascisti, che in qualche modo riuscivano invece a parlare in modo democratico, a fare un dibattito proprio all'interno di questa iniziativa. E proprio Lazzaro stesso riconosce forse come appunto realtà come i centri sociali in molte città siano in qualche modo abbiano il merito di avere un diciamo così una sorta di entrata di democrazia per diciamo tutte quelle frange, tutti quei personaggi, quelle persone, tutte quei cittadini che in qualche modo non riescono invece normalmente ad entrare nella politica istituzionale, lodando appunto che quello che è, nonostante le molte diciamo così pressioni che ci sono da numerosi ambienti, lodando appunto quella realtà dei centri sociali un po' sparsa per tutta l'Italia, che sembrerebbe appunto secondo lui l'ultimo baluardo contro appunto quell'appiattimento culturale, contro quella cultura della violenza che purtroppo sempre più spesso si fa luce appunto qui nel nostro paese. appunto quello su cui volevamo soffermarci e che sentiremo adesso dalla viva voce di un veronese è appunto il fatto che non è neanche da additare alla cultura, diciamo così, di estrema destra quello che è avvenuto quella sera, ma è un po' proprio da denunciare quella che è la situazione sociale che si sta creando appunto a Verona, come un po' in tutto il nord-est, una situazione appunto che ha portato i giovani a non avere più non solo valori, ma non avere proprio più altro motivo se non fare le ronde notturne, e soprattutto una cultura che ha estremizzato il discorso della diversità come una sorta di valore, una sorta di cosa da combattere aspramente. Appunto abbiamo diciamo in qualche modo ripreso questa breve intervista fatta nei giorni immediatamente successivi all'aggressione, ma nonostante diciamo così il fatto che sia di qualche giorno fa, è molto importante appunto per comprendere qual è lo stato emotivo che si vive a Verona e soprattutto la cultura in qualche modo violenta che purtroppo si va affermando in quella città, appunto. Di sera a Verona, presso il Circo Link, si è tenuta una importante e affollata assemblea di movimento per discutere sulle iniziative da mettere in campo dopo l'omicidio del giovane ammazzato di botte da un gruppo di 5 neofascisti. Ne parliamo con Pippo del collettivo del centro sociale occupato e sgomberato La Chimica. Ciao Pippo. Ciao a tutti e a tutti. Allora Pippo, facci una breve relazione, insomma un resoconto di questa assemblea, le presenze e anche come è andata la discussione e poi se sono state prese delle decisioni. Certo, dunque ieri il primo passo di un percorso che si prospetta complesso ma sicuramente importante, anche significativo. Ieri un'assemblea che abbiamo detto pressoché, insomma, improvvisandola al presidio del giorno precedente, che mi sembra sia ampiamente riuscito. Conoscete Verona, più di 300 persone in piazza così organizzate in un giorno, non sono poche. Quindi ecco, anche ieri sera la risposta è stata molto forte, eravamo più di 50, rappresentate c'erano le realtà che ben conoscete, La Chimica, il Pink, c'era il Caffè Metropolis, il Coordinamento Migranti, c'era la Sinistra Critica, c'era la Biblioteca Domaschi, c'erano poi tante altre persone, come dire, simpatizzanti o non di gruppi definiti, ma ecco, un'assemblea molto molto partecipata. La prima, diciamo, assemblea cittadina spontanea a cui ne devono seguire, ne seguiranno altre. La prima decisione chiaramente era quella su una valutazione per il corteo nazionale. Si era sentita la necessità già di provare a definire una data, si è discusso molto, una discussione interessante sul fatto di provare a farlo addirittura questo sabato, riflettendo purtroppo su un certo approccio che qui la città ha alle cose. Adesso è sconvolta, in questi giorni è sconvolta, la paura è che, aspettando anche solo 10 giorni, questa attenzione possa venir meno. È comunque un ragionamento a perdere, ci è sembrato comunque importante, ecco, scommettere su una possibile Verona che ci sia, che ci deve essere, che anche fra 10 giorni sia in grado di far sentire la propria indignazione. Quindi la data scelta per il corteo è il 17 maggio, è una decisione, insomma, presa ieri sera. Le caratteristiche del corteo, che sono altrettanto importanti, sarà un corteo indubbiamente che attraverserà il centro città. Qualcuno propone o parla di farlo terminare proprio nella famigerata Piazza Erbe, questa piazza che è un po', come dire, la piazza d'armi di questa nuova generazione, non solo, che appunto sta alla deriva più totale. Adesso comunque discuteremo nello specifico del percorso. Sarà un corteo che vorremmo, almeno le realtà ieri presenti, nella gran parte, nella maggioranza, vorrebbero sia aperto dai veronesi, non per ragionamenti localisti dell'ultima ora, ma perché crediamo, l'ho detto anche ieri e lo ribadiamo con forza, che se si vuole cambiare qualcosa in questa città dobbiamo in qualche modo responsabilizzare, dobbiamo scaricare un peso sui veronesi. È possibile che questa volta la scommessa riesca, chiaramente si parla sempre della scommessa, lo immaginiamo, potenzialmente aperto dagli studenti. Studenti che poi sono veramente le prime persone coinvolte da un certo tipo di dinamiche, non solo erano studenti gli aggressori, ma studenti sono state spesso le vittime di una serie di raid che hanno attraversato il centro. Lo vorremmo aperto dagli studenti, lo vorremmo aperto dagli amici, dalla famiglia, dalle persone che Nicola conoscevano, della Valpolicella e non solo, proprio perché in questo caso ed è importante che passi questo concetto, non hanno ucciso un compagno, non hanno ucciso una persona che era definita, che è un avversario, comunque insomma una persona stigmatizzabile per loro come un qualcosa di opposto alle loro politiche idee, era una persona qualunque. È questo che fa capire che siamo arrivati appunto ad un livello. Ecco, scusa Pippo, a questo proposito, è plausibile l'ipotesi che l'aggressione sia nata solamente dal fatto che Nicola o l'amico aveva i capelli un po' più lunghi, diciamo, di quanto evidentemente piace a questi neofascisti? Allora Umberto, è garantita la cosa, quello che non si sa ancora, di cui si è parlato poco, che questo piccolo comando di giovanissimi era tutta la sera che girava per il centro. Abbiamo parlato con un ragazzo punk molto giovane che è stato fermato dagli stessi e che ha subito le loro attenzioni, gli sono state strappate le spille, è stato spintonato e chiaramente umiliato, non l'hanno picchiato questo ragazzo punk perché probabilmente ha avuto il tempo di allontanarsi. Forse l'unico grave errore che ha fatto Nicola è stato quello di provare a mandare a quel paese questi arroganti, è bastata una parola in più perché questi lo tramontano. Quindi diciamo questo gruppo era a caccia di persone non gradite nella loro area. Era una delle tante squadre, di questo si deve parlare, e non di Boned, delle tante squadre di giovanissimi e non solo, che girano per il centro città e che nella noia più totale, in un gioco perverso che è quello di ripulire la città, vanno a caccia di chi è in quel momento, come dire, obiettivo preferenziale in un ragionamento di pulizia, di ripristino del decoro, della veronesità. Questo quindi in particolare passare. Compagni o attivisti delle aree antagoniste, immigrati, punk, certo. Cappelloni, diciamo compagni, così. Se non in gruppo diventano gli obiettivi preferenziali, però basta veramente poco. Adesso abbiamo sentito i tanti racconti che stanno tornando ad emergere, ragazzi seduti nelle piazze, ragazzi che suonano la chitarra, ragazzi che appunto hanno comunque che danno una percezione di sé che non sia quella in qualche modo familiare, compatibile o gradita a loro signori. Un ragionamento del genere si estende a Machiavelli, coinvolge da, come dire, gli imprenditori politici di area, che sono le tante formazioni indubbiamente coinvolte, perché stiamo ragionando anche con il lavoro di Emanuele del Medico, ma con altri compagni, su quali sono le connivenze con Forza Nuova, Fiamma Tricolore o il blocco studentesco. Queste cose vanno fatte bene. Ecco, peraltro pare che perlomeno il primo arrestato sia stato proprio attivista militante del blocco studentesco, che è l'organizzazione studentesca della Fiamma Tricolore, no? Certo, che non dimentichiamo fa capo proprio a quel Miglioranzi che è seduto in consiglio comunale, che adesso sta in qualche modo in maniera anche, devo dire, piuttosto vergognosa, prendendo le distanze, negando, addirittura appunto infamando anche la memoria di questi camerati, dei quali dovrebbe avere quantomeno lui rispetto. Ecco, questa operazione veramente pietosa. Hanno fatto emergere le connivenze, i collegamenti e appunto le operazioni di imprenditoria politica che alcuni partitucoli dell'estrema destra hanno messo in atto, però è giusto dire che questa generazione ormai non ha più confini. Ecco, la dimensione di simpatizzante, di forma di vita estesa, che abbraccia un certo stile di vita pur senza doverne, come dire, approfondire i ragionamenti, questi ragazzi non sono sicuramente persone interessate ad approfondire un certo tipo di cultura, di militanza, di impegno politico, ne amano, ne condividono le modalità operative, le applicazioni pratiche, il senso di essere o di esistere in una città, è questo il grave. Metà di loro, se due erano più politicizzati, gli altri tre erano semplicemente persone che con questi due condividevano l'idea che fare la ronda anti fricchettone, zecca o quant'altro è bello, è normale, è naturale, è questo che deve fare paura, è naturale. Ti dicevo, senza dilungarmi troppo, altrettanto naturale deve essere la risposta dei veronesi. Vogliamo che scenda in piazza da Verona, che probabilmente con noi ha anche poco in comune, dico, parlo da militante. Ecco, scusa Pippo, ti richiamo solo ancora un istante su questo aspetto che mi sembra sicuramente più pregnante, no? È evidente quindi che il sostenere, come stava cercando di fare Tosi, ma non solo lui, che non esiste una matrice politica di questa aggressione è veramente un tentativo di mistificazione della realtà, perché seppur in una forma non politica con la P maiuscola di organizzazione, di premeditazione sul piano organizzativo, sicuramente è un atteggiamento che parte da un approccio comunque di una certa politica. Certo, è un'operazione gravissima, lo sapevamo, così dopo l'imbarazzo della primora è indubbiamente corso una controffensiva, stanno parlando appunto di matrice non politica, potrebbe passare tutta la matrice non partitica, ma di politica si parla. Il problema è vero che lui ha tutta la convenienza di far capire che il suo elettorato, che l'operazione enorme che ha fatto di rappresentanza e di rappresentazione di una città che c'è è estremamente politica, in realtà lui la butta proprio su una qualcosa appunto di esistenziale che deve sconvolgere. Sta parlando di un disagio al quale non dà nome e sta confermando il discorso che abbiamo fatto anche noi nei primi giorni, che era quello appunto di un'operazione di ripulire Verona, no? Di ripulire Verona, che Verona non si sente in qualche modo messa in discussione dall'interno, il problema viene sempre dall'esterno. Temo che Tosi approfitti anche di questa situazione per rilanciare un certo tipo di pensiero, per farsi ancora una volta paladino della Verona sotto assedio, della Verona non capita, della Verona invidiata, della Verona che subisce, no, il razzismo al contrario, sì, superata, insomma, denigrata. Esattamente, un po' come fu al caso Marsiglia, tanto più in questo momento in cui i giornali anche stamattina privano, piuttosto che le televisioni locali, con guardate come i media nazionali, la stampa ci attacca. Noi dobbiamo saper rispondere, nel momento in cui loro contestano il fatto che di Nazischino si trattasse, ma di ragazzi, noi dobbiamo saper giocare su quel terreno, dire vero, non erano Nazischino, ma questo è ancora peggio, questo sono prodotti del brodo culturale che una certa società ha creato, in cui i Nazischino, Fiamma Tricolore, Forza Nuova sono sicuramente dei parti visibili, ma sotto c'è... Che comunque fossero fascisti e che probabilmente magari hanno anche marciato con Tosi quando c'è stata l'iniziativa... di dicembre, insomma, ecco, non lo possiamo affermare con certezza, perlomeno io non lo so con certezza, ma potrebbe essere più che probabile, insomma. Certo, direi che le prudenze della prima ora adesso vanno superate, ripeto, qui l'assalto è frontale da parte dell'amministrazione, della giunta, ma anche di un certo tipo di cultura cittadina che si sta armando per difendersi e contrattaccare, non dobbiamo permetterlo. L'operazione, in questo senso, che vogliamo fare con il corteo nazionale è quella proprio di far parlare l'altra Verona, non deve essere un accento spiccatamente di movimento, perché sicuramente avrebbero vita facile coloro i quali tentano di farci passare come strumentalizzatori di un certo tipo di discorso. Deve esserci la Verona di movimento e l'Italia di movimento, deve esserci in maniera chiara, radicale, fa immediatamente a seguire una parte della Verona sulla quale scommettiamo, che sia quella Verona che ha aperto gli occhi, che probabilmente fino ad oggi continuava a ripetersi che certi problemi probabilmente erano enfatizzati da una parte, che oggi ha visto che in realtà i nostri timori, i nostri sospetti non erano strumentali, era un bisogno di parlare, erano reali e che se non vengono condivisi si ripeteranno sicuramente. Questa è la nostra grande paura, attenzione che queste cose si ripeteranno, l'abbiamo detto 2 anni fa, è successo, abbiamo il timore che la città non abbia intenzione di fare un passo indietro, che anzi possa diventare ancora più arrogante, quindi la risposta deve essere forte, chiara e condivisa. E allora, come avete sentito dalle parole di uno degli organizzatori appunto di questa prossima manifestazione che si svolgerà sabato 17 maggio proprio a Verona, proprio in quel centro storico cittadino in cui si è verificata questo terribile episodio, ci sarà appunto questa manifestazione un po' per ricordare quello che è successo, questo triste episodio che si è verificato nei confronti di questo giovane ragazzo che appunto una sera uscendo con degli amici purtroppo ha incontrato la morte. Ma questo non è soltanto per denunciare quello che si è verificato nei confronti appunto di Nicola, ma in qualche modo per denunciare quello che è successo a Verona e che probabilmente succederà ancora non solo in questa città, ma purtroppo che si verifica quasi quotidianamente e sistematicamente in tutte le città, in buona parte delle città del nostro paese. La partenza del corteo sarà dalla stazione di Verona, appunto Porta Nuova, dalle ore 15, e si cerca di far scendere in piazza non solo diciamo così i militanti, ma soprattutto di coinvolgere gli amici di Nicola, i familiari di chiunque conosceva appunto questo ragazzo, per liberare questa città, ma non solo, appunto si sta parlando di Verona, dall'intolleranza, dal razzismo, dall'ignoranza, ma anche dalla paura e dall'odio che appunto purtroppo si stanno verificando episodi appunto in questa direzione. Se si può trovare in qualche modo uno slogan di questa manifestazione, questo può essere il fatto che Nicola poteva essere appunto ognuno di noi. Come potrete immaginare, sono varie le realtà e le entità che aderiscono e aderiranno a questa manifestazione. Ci stanno già alcune organizzazioni che si preoccupano di mettere informazioni in rete per organizzare partenze da Roma. Si starebbero organizzando dei pullman al costo di 20 euro a testa andata e ritorno, e che appunto sono stati organizzati tutta una serie di appuntamenti da ieri, proprio ieri sera 9 maggio alle ore 19 a piazza Trilussa. Si è organizzato un presidio in qualche modo per rilanciare la manifestazione di sabato 17 proprio di Verona, e anche nella prossima settimana ci saranno alcuni appuntamenti, come ad esempio un'assemblea di mercoledì 14 maggio presso il centro sociale Forte Prenestino, oppure un aperitivo informativo giovedì 15 dalle ore 19 in piazza San Lorenzo. Se ci spostiamo a Milano, anche qui si starebbero organizzando dei treni e diciamo delle mobilitazioni da questa città. L'appuntamento per ora è alla stazione centrale proprio il 17 stesso, dalle 10:30, in cui partiranno treni che raggiungeranno Verona. Per informazioni potete consultare il blog asso.noblogs.org. Anche dalla stessa città di Bologna si starebbero organizzando anche qui pullman, treni e quant'altro per poter raggiungere Verona. Vi do un'informazione al volo: AAP bologna@riseup.net. Per quanto riguarda invece l'informazione per appunto provenienti da Roma, potete scrivere a quest'altro indirizzo email: adesioni 17 maggio @gmail.com. Appunto, l'email, l'ultima che avete sentito, adesioni 17 maggio @gmail.com, è appunto anche la mail, diciamo così, a livello nazionale per in qualche modo aderire o avere maggiori informazioni proprio dalla città scaligera, proprio da Verona. Ci stiamo per salutare qui. Prima di tutto due riflessioni, diciamo così, prima di appunto darci appuntamento la settimana prossima, sul fatto appunto che molto più spesso quotidianamente appunto nel nostro paese se culturalmente, socialmente, senza diciamo discutere di politica, c'è purtroppo una sorta di contrapposizione violenta, un incitamento appunto all'odio in qualche modo con le persone, tutta una serie di spinte diciamo più o meno importanti che purtroppo generano sempre più spesso questi atti di violenza tra persone che hanno magari solamente un taglio di capelli o la lunghezza dei calzoni differente da appunto altre persone, soprattutto per i più giovani che sono diciamo le vittime molto più spesso di questa cultura, le vittime nel senso che cascano molto spesso all'interno di questa logica, si dovrebbe lavorare, si dovrebbe in qualche modo avvicinarli e fargli capire che purtroppo forse la realtà non è così discordante come normalmente si dice. E con questo proprio ci salutiamo, vi ricordiamo solamente il blog www.noblogs.org e ovviamente la mail verbavolant@mepradio.it e appunto l'appuntamento è a sabato prossimo dalle 14 alle 15 e ovviamente sul blog per chiunque abbia voglia di seguirci.